speranza di ritornare un giorno a casa con la Mercedes accanto alla mamma. Ciao ciao ciao siciliano, ciao ciao ciao, giri il mondo e cerchi la fortuna. Ciao ciao ciao siciliano, ovunque tu andrai non sola troverai. Di ritornare un giorno a casa con la Mercedes accanto alla mamma. Ciao ciao ciao siciliano, ciao ciao ciao, giri il mondo e cerchi la fortuna. Ciao ciao ciao siciliano, ovunque tu andrai lo sola troverai. Si chiama mafia, ombra nera che ti seguirà, e se la gente ti fa una smorfia, questa canzone la cancellerà. Ciao ciao ciao siciliano, ciao ciao ciao, ciao ciao ciao siciliano, ovunque tu andrai lo sola troverai. Ciao, ciao, ciao, Siciliano.